Per ogni guida turistica autorizzata a Venezia ce ne sono 5 di abusive, quindi completamente sconosciute al fisco. L'allarme è stato lanciato dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Venezia, Caterina Sopradassi, ma in questo caso Venezia è paese. Un danno significativo non solo per la sottrazione di lavoro a coloro che hanno studiato per ottenere la licenza, basti dire che un tour di 2-3 ore con una guida regolare ha un costo di circa 120 euro tasse comprese, mentre un abusivo ha un costo ridotto ma sconosciuto all'erario. Fate voi i conti. A questo Marcella Bagnasco, presidente dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche, aggiunge dell'altro. Per esempio abbiamo visto sparire, questo in tutta Italia, i francesi. Ma qui subentra un altro discorso, non è tanto l'abusivismo locale quanto le norme europee che vengono violate. In pratica, secondo le leggi europee, le guide turistiche straniere possono operare in Italia, ma solo temporaneamente e occasionalmente. In realtà, dice la Presidente, le guide varcano il confine tutti i giorni, sottraendo lavoro alle guide italiane, dice la Presidente, ma anche sottraendo soldi alle casse dello Stato, diciamo noi, perché pagano le tasse nei loro paesi di origine. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.